cioè, e mi ascolto quella musica lì, capito? Sì, sì, anche io lo stesso, i Queen a me piacciono. Io ho molti CD, cosa ho fatto? Ce ne ho diversi, ne ho una quarantina. E me li ho messi nel lettore del computer, cioè Windows Media Player. Praticamente li passo dal CD al lettore musicale, capito? E poi dal lettore musicale, capito, mi ascolto la musica al computer, capito? E così non sto con i CD. E i CD li tengo, capito? C'ho la scrivania qua con sopra delle mensole e li tengo lì, capito? E comunque è molto pratico così, perché quando voglio ascoltare musica, tanto il computer ce l'ho quasi sempre acceso, quindi lo metto, capito? E i Queen, io mi c'ho anche Freddie Mercury, capito? C'ho Annie Lennox, non so se ti piace, c'ho Amy Winehouse, ne ho diversi, capito? Di Gypsy King, capito? Un sacco, c'ho Lucio Dalla, anche roba italiana, Michael Jackson, Nina Simone che fa delle buone canzoni, c'ho il meglio di cose di Paolo Conte, Nino Daniele, e poi i Queen ce li ho, adesso te li faccio sentire già. Radio Gaga, te la ricordi? Io di Queen le conosco tutte, perché sono appassionato sia io che mio figlio. Infatti l'album, il doppio album, me l'ha regalato Marco a me al compleanno. E praticamente gliel'ho messo in testa io. E adesso li ascolta sempre, li canta, che canta molto bene Marco. Canta le canzoni di Queen, è molto bravo. E cosa ti stanno dicendo? Io ascolto gli America, non so se tu ce li ricordi, poi tanti gruppi, cavolo, che adesso non me lo ricordo, però che io ascolto, ce li ho tutti quanti, quelli di prima ce li ho tutti, c'ho anche gli Intilimani. Sì, sì, gli Intilimani ce li ho anche io, già li ascolto. Io c'ho un po' di tutto, c'ho da musica soul, c'ho Sting, e non so se ti ricordi Supertramp, Breakfast in America, tutta quella roba lì che andava negli anni 80. E c'ho, per dire, io, a me piace un po' tutta la musica, capito? C'ho Simply Red, insomma, Santana, capito? Poi di italiani c'ho tanta roba, lo stesso Samuele Bersani, mi adesso sto guardando, Sade, poi dei Queen c'ho anche l'album, quello Made in Heaven, diversi, poi c'ho il doppio album, quello dei Queen, tutti i successi, insomma già un po' di roba ce l'ho, poi già io ascolto molto la radio pure, capito? Mi metto la radio, a volte mi accendo la televisione, mi metto i canali musicali, quindi me la canticchio anch'io facendo le pulizie ogni tanto. A te il microfono già. Sì, anche io ascolto RDS sempre. La mattina quando faccio colazione, poi pulisco, pulisco le gambe, sempre con la musica, sempre, la musica è sempre nelle mie orecchie. E Tracy Chapman, te la ricordo. Bravo, Tracy Chapman è molto brava. Di Tracy Chapman mi sa che avevo l'album e non me lo ritrovo più, chissà dove è finito. Avevo anche di lei il CD, lo devo cercare perché ce l'avevo e così me lo metto nel computer, anche quello, ogni tanto me l'ha sentito. Io ce l'ho ancora perché l'ho ascoltata da poco. Poi io da ragazzo mi divertivo nelle radio private e registrare le canzoni che mi piacevano, no? E c'ho tutte le cassette con le canzoni degli anni 80, ma tutte quelle belle. L'altro giorno le ho trovate una c'era scritto Diane Street, dammi Diane Street, invece ci avevo messo, deve essere qualche nastro diverso, dove c'erano tutte le canzoni degli anni 80, ma una più bella dell'altra, mi ha fatto proprio la doccia volentieri. Eh sì, lì adesso che stiamo parlando di queste cose, stavo guardando anche io qua cosa c'è su Daniele, insomma, però ci avevo 13 Chessman e non me la ritrovo più due. E io ne ho, c'ho anche Modugno, piange il telefono, c'è in vinile, ma tu vinile ne hai? No Gianni, di vinile non ho più niente, da ragazzo ne avevo, capito? E di vinile di 33 giri e qualche 45 giri era rimasto qualcosa a Bonorva a casa di mia suocera, perché lì conservava tutto, no? E quando è morta, che stavamo mettendo a posto, mi ricordo avevo trovato il capito, roba che era di mia moglie quando era giovane, capito, tutti conservati, ma non sono album che non è che hanno chissà che valore, e poi devi avere insomma i piatti per ascoltarli, quel tipo di dischi lì sono voluminosi, capito? Ci sono sì quegli appassionati che li comprano, ma non, capito, tu se li vai a mettere in vendita ti danno due cinti, per cui sono rimasti là dentro tutti in un cassetto, chissà che fine faranno, poi alla fine si butterà via tutto. Io mi sono comprato un piatto professionale della Sony, con la pressione e tutto, come ce l'hanno in DJ praticamente. L'avevo preso da Cineradio, quando c'era l'emiciclo, ti ricordi? Sì, sì, me lo ricordo, io in quel negozio ci avevo comprato anche un CD lì a Cineradio all'emiciclo, della General Electric, che disturbava un sacco quella radio, perché non era omologata, capito, quindi non aveva filtri, non aveva niente. E anche io avevo comprato un portatile di 100.000. Esatto, aveva qualcosa nella vetrinetta, infatti io l'avevo visto passando, che bellino, piccolo questo CD, e l'ho piatto a casa mia, Bonorva, entravo nelle TV, insomma dappertutto, capito? Quindi poi l'avevo venduto, capito? L'avevo fatto fuori perché poi avevo preso l'Alan 48 di Alan, avevo avuto anche quello a 36 canali, capito? E tante radio, poi molte le ho regalate, scambiate, vendute, ne ho ricomprato altre, io sempre così ero con le radio. Quando i CD andavano, capito, ma sto parlando degli anni 80, E io ero lo stesso. Io se avessi conservato tutti i soldi che ho speso in radio sarei stato, non dico ricco, ma avrei avuto un mercoledì. Esatto, sì, i soldi tra cavi, antenne, una volta mi ho fatto un dipolo autocostruito, avevo trovato chi mi aveva dato, insomma, mi aveva detto come farlo, era un radioamatore, poverino, è morto, lui mi aveva dato tutte le misure, e praticamente questo dipolo aveva un terrazzo grande, no, a Bonorva, e avevo il terrazzo coperto, poi c'era la scaletta a chiocciola, salivi su e c'era quello scoperto, ed era roba di 20 metri quadri di terrazzo, capito, grande, che noi avevamo una casa grande, colonica, di quelle enormi, e lì c'erano i tiranti da un punto all'altro, i fili per tendere, no? Però c'erano i tubi alti, alti, alti, e lì avevo attaccato i fili del dipolo, capito? Avevo fatto questo dipolo e mi risuonava praticamente da 26 sino a 29, capito? Me l'aveva fatto lui, ed era perfetto, pur essendo omnidirezionale. Lì andava benissimo, non mi rompeva più le scatole nessuno, perché nessuno capiva che cosa fossero questi fili, pensavano fossero fili per tendere, capito? Quindi no, l'antenna a Carlo non ce l'ha più, l'ha tolta, quella che disturbava, eccetera. Invece con quella andavo benissimo. Mi ricordo che da Bonorva la sera rientravo e tutte le volte sentivo questo che trasmetteva da da Badesi, sembrava dietro l'angolo, capito? Con segnaloni tipo Santiago 9 mi arrivava. Tutte le sere infatti mi ricordo che mettevo a chiacchierare con lui, capito? Ma sparavo bene da lì, perché poi avevo un palazzo alto, non avevo grandi ostacoli e insomma soldi, poi ne avevo speso tanti, radio, anche portatili ne ho avuto tantissimi, neanche me lo ricordo più già quanti ne ho avuto. Non è che questo di Barile si chiamava Briscone, te lo ricordo? Non me lo ricordo, perché ci chiamavamo per nome, capito? Non per nome di radio. Io mi ricordo quando eravamo a Norva, la mia stazione si chiamava Stazione Europa. Non so se ti ricordi, c'era un vecchio programma in quegli anni lì che si chiamava Europa. Le prime volte che si parlava di Unione Europea, ma tanti anni fa, capito? Allora così dice, nome, devi avere il nominativo, eccetera, allora avevamo messo Stazione Europa, però poi alla fine, capito, ci chiamavamo sempre per nome e pochi usavamo il nome della radio, capito? Sì, ma tante volte è sbagliato, perché magari ci sono tre gialli, come succede adesso. E se ti chiami per nominativo ti riconosce, se ti chiami per nome rispondono in tre. sì, no, per quello hai ragione tu e va bene così. Certo, nominativo, però poi chiamavi, sentivo Carlo, ci sei, sempre mi chiamavano per nome, quindi anche io poi alla fine mi sono disabituato ad utilizzarlo, capito? Lo stesso qua, diciamo di Carlo, mi sa che non ne ho sentito altri in radio. No, adesso non ce n'è. Prima già ci sono stati, ma adesso non ce n'è più Carlo. E comunque ti stavo dicendo, io quei dischi in vinile, cambiando discorso, li vado a comprare, adesso ultimamente c'era, dove c'è Città Mercato, che c'è la Conad adesso, c'era un rivenditore di dischi in vinile che ne aveva addirittura col cellophane ancora chiuso senza essere venduti. E qualche cosa me l'hanno preso anche i miei figli, a Natale mi hanno regalato un disco degli Inti-Illimani dove c'è il poema Unido che avanzerà vencido con la canzone lì. Sì, adesso mi sono ricordato che Tracy Chapman, quella che dicevi tu, non era in CD, ecco perché non me la ritrovo, ma ce l'avevo in cassetta, era con la cassettina, capito? Infatti mi ricordavo la copertina che c'era lei, capito, che suonava con la chitarra, infatti non ce l'ho più perché tutte quelle cassette lì mi sa che le avevo fatte fuori, perché molte si rompevano eccetera, quindi alla fine comprare tutti i CD nuovi non me la sono sentita. Mi sono preso insomma quelli di cantanti famosi tipo i Queen, capito, Sade oppure Michael Jackson, qualcosa di anche di cantanti italiani, capito, però il più ce li avevo in cassette, quando allora andava in macchina avevamo la radio, non col CD ma con le cassette, capito? Avevamo la borsa nel portabagagli e ogni tanto cambiavi da lì, capito? Non so se ti ricordi questi passaggi. Li ho avuti anche io, Carlo, sì. Io sono del 59, ne ho avuto dei CD, di mangiacassette, Walkman, di tutti di più. comunque io nell'impianto ho mangiacassette, ho il piatto e ho la radio e l'amplificatore naturalmente, più due belle casse che quando suonano ti vibra tutto. Già me l'avevi fatti vedere, mi sa, avevi un bel po' di attrezzatura tu. Già è una bella passione la musica, a me lo stesso piace. Io ho praticamente una cassa della Creative col subwoofer eccetera, e si può staccare eccetera, e la puoi collegare come barra alla televisione, no, quelle che si mettono sotto, però questa è più quadrata e praticamente la puoi collegare alla TV col cavo anche ottico, infatti per c'ho il cavo ottico per collegarla, ed è una bomba. Se tu ti metti a vedere film di guerra, capito, e ti colleghi quell'audio lì, ti togli l'audio della TV e ti metti quella cassa lì, sembra che ci sia la guerra dentro casa tua, capito? Però ovviamente lo devi tenere basso, capito? E quella lì funziona col Bluetooth, ci puoi mandare la musica col telefonino, capito? Infatti molte volte mi accendo quella, c'ho delle... come si chiama? Io siccome ho l'abbonamento con Amazon Prime, e quindi ho Amazon Music, dove da lì ti puoi ascoltare la musica che vuoi, capito? E quindi mi collego lì e metto tutta la musica che voglio, capito? Me la mando dal telefonino a quella cassa lì, capito? Poi c'ha il timer e puoi programmarla, dopo un'ora se vuoi si spegne, dopo due ore, come vuoi tu. È bellina, l'avevo pagata un po' di soldi, capito? È tutta senza fili, capito? L'unica cosa è che quando la devi collegare alla TV, la puoi collegare o con un diciamo cavo classico, quindi c'ha diverse uscite, però quello più pratico è il cavo ottico, che l'avevo trovato quando ho comprato la casa, mi erano lasciato anche quello in dotazione, e la mia televisione, che è un Samsung diciamo abbastanza recente, ha anche l'attacco per il cavo ottico ed è perfetto, dai. Io se non avessi degli inquilini in questo palazzo, cioè ce n'è solo uno che sono anche giovane, dovrebbero andare a casa serena perché non posso attaccare con la radio che vengono a bussare la porta. E l'ultima volta glielo ho detto, non ci venite più qua, se dovete chiamare chiamate a qualcuno, io sono alle 6 di sera e la musica me l'ascolto, non siete voi che mi dovete dare degli ordini in casa mia. Beh, fatto sta che io ho 3 impianti, non uno, no, ho quello del computer, che praticamente ho le case subwoofer e suona da Dio, poi ho quello del karaoke e in più ho la casa karaoke, quella grande dove c'è radio eccetera, però non posso alzare più di tanto perché questi qui dovrebbero andare a casa serena, infatti stavo per dire andate a casa serena oppure via San Paolo, stanno tutti zitti e non parla nessuno. Sì, e infatti adesso che sono al computer ho messo, cercato Tracy Chapman e me l'ha dato, capito, quindi quando io voglio musica mi collego con Amazon Music e mi dà tutto, capito, mi dà tutto quanto. Per cui mi piazzo la musica e poi a casa mi metto a fare le faccende domestiche, o mi metto a cucinare, capito? Mi metti un po' di allegria, dai. Io per mettere i dischi devo dedicarmi una serata, perché quando faccio le pulizie poi il disco finisce, mi tocca mollare, andare, mettere l'altro, invece se metti CD, perché il mio ha una funzione che ci possono mettere 8 CD, e finito uno si mette l'altro automaticamente, come era, ricordi lo stereo della Real Digger, quello lì, della selezione, e quello lì però lo fa con i CD, praticamente c'ha 8 CD e girano, e il mio impianto è Panasonic, che non è un impianto di cavolo, è solo a me. Roba buona, Panasonic sono specializzati proprio in impianti, eccetera, e Sony anche, ma ce ne sono diversi. Sì, il piatto è Sony, e poi gli ho messo un amplificatore per il piatto, che è minuscolo, però si sente bene, è minuscolo, l'ho attaccato dietro, e l'avevo preso la GBC, una fesseria l'avevo pagata, avevo un amplificatorino piccolino, però che rende. Sì. adesso che mi hai ricordato a 3°, mi sto scaricando l'album, capito? Perché in effetti ti fa scaricare anche le cose qua, e così mi rimangono sul computer. Poi c'ho tutti i 45 giri, anche c'ho anche un 45 giri grande come 33, però è 45. C'ho 45 giri da discoteca, c'ho Super Tramp, c'ho cosa ti posso dire? Mort, Be Alive, tutte quelle canzoni lì. C'ho musica da shake, da insomma ne ho diverse da discoteca, che quando le metto mi fanno ballare, e mi metto a ballare da solo come ti rimane. Sì, anche io già mi appento con le canzoni, con gli autori, eccetera, ma a me piacciono anche molto gruppi musicali, tutti quelli degli anni 80, Dire Straits, capito, e quanti ne ascoltavo, e avevo tante di quelle cassette, capito, che tu neanche immagini. Poi eravamo 5 fratelli e sorelle, noi eravamo in 5 a casa, tutti più o meno 2 anni di differenza uno dall'altro, capito, quindi tutti la serie dei dischi 45 giri, mi ricordo che c'era Ivan Graziani quando ero piccolino, i miei fratelli erano più grandi e quindi si ascoltavano Ivan Graziani, che poverino è morto, Rino Gaetano, tutti quei cantanti lì, capito, ce li avevamo tutti su vinile, su 45 giri soprattutto. Poi più tardi si erano presi la passione dei 33 giri, quelli più grandi, ma ne avevamo uno scatafascio, chissà che fine hanno fatto. Io vado a comprarli quando fanno i mercatini, anche in piazza l'ultima domenica del mese, andavo lì a compravo solitamente quelli nuovi chiusi, di modo che non siano graffiati, se no magari ti capita quello graffiato e si sente come le patatine fritte. E niente, avevo la passione, prima ce l'avevo molto di più, registravo, facevo, adesso un po' meno perché le dico più tempo al canto, capito, quindi le altre cose un po' le lasciate perdere. Ma vabbè, ogni periodo c'ha le sue passioni, no? Sì, esatto. Sto sentendo il tuo cane, poverino, che ti sta chiamando. Portalo a fare i bisogni, Gianni. Poverino. E quella, la cagnetta di mia figlia, già è poco curiosa. L'altro giorno me l'hai portata, capito? È rimasta a casa, quando mi vede mi fa le feste, capito? E già fanno compagnia. Sì, sto per andare, guarda che c'è Gianni che stava chiamando, che entra sempre in cucina senza break a 1000 all'ora, avanti Gianni. Ciao, buon pomeriggio, doppio room. Luia, non lo sento all'altro amico, sento solo a te, e poi c'è tipo a Tyson chiamando, come se dicendo, di papo, aiuto, fammi una carezza, buttami in giro, aiuto, molla tutto. E infatti sto andando, dai, vi saluto. Ciao Carlo, ciao anche a Gianni, mi dispiace che sei entrato adesso e non vi sentite con Carlo, però non ci posso far nulla, io devo andare. Dai, ciao Carlo, ci sentiamo, grazie per il QSO, alla prossima. Va bene Gianni, salutamelo tu Sampi, che io non lo sento, a volte lo sento, a volte no. Va benissimo, buona passeggiata, dai, ci sentiamo sicuramente domani. Ciao ciao, buona serata. Ma com'è non è parata? Ciao ciao, ci sentiamo. Sampi, ti saluta Carlo. Ehi, al ricambio, ricambialo, dirgli che magari più in là magari forse già mi sentirà quando ci siamo a radio. Avremo un po' stessa in ricezione. Carlo, ti saluta Sampi.